Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Sebbene il professor Ermanno si fosse congedato con un cordiale arrivederci, a nessuno sarebbe venuto in mente di tenere eccessivo conto della promessa. E invece, la domenica dopo, mentre sul campo Adriana Trentini e Bruno Lattes da una parte e Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo dall'altra stavano combattendo con estremo impegno una partita il cui esito, secondo i dichiarati propositi dell'Adriana che l'aveva promossa e organizzata, avrebbe dovuto ripagare lei e Bruno, almeno moralmente, del brutto tiro giocato loro dal marchese Barbicinti, ma la faccenda questa volta non sembrava avviata sui medesimi binari. L'Adriana e Bruno stavano perdendo, e piuttosto nettamente. Ecco, a un tratto, verso la fine dell'incontro, sbucare dal sentiero delle roselline rampicanti l'intero Côté Vecchi, uno dopo l'altro. Facevano davvero un piccolo corteo. Più tardi, al termine della partita, e dopo che i nuovi acquisti, Desiree Baggioli e Claudio Montemezzo, furono a loro turno presentati, mi accadde di ritrovarmi in disparte col professor Ermanno. Nel parco la giornata stava, come al solito, spegnendosi in ombra diffusa, color del latte. Mi ero allontanato di una decina di passi. Udivo alle mie spalle la voce acuta di Micol dominare tutte le altre. Chissà con chi ce l'aveva, adesso, e perché. Guardavo verso la mura degli angeli, illuminata ancora di sole. «Era già l'ora che volge il disio», declamò una voce ironica, piano, accanto a me. Mi voltai stupito. Era il professor Ermanno, appunto, che mi sorrideva bonario, contento di avermi fatto trasalire. Mi prese delicatamente per un braccio, quindi, adagio adagio, fermandoci ogni tanto, compimmo insieme un ampio giro attorno al campo di tennis. Ci eravamo tenuti ben discosti dalla rete metallica di recinzione, girando molto al largo. Da ultimo, tuttavia, per non correre il rischio di finire ugualmente in mezzo ad amici e parenti, tornammo indietro. Avanti e indietro ripetemmo la manovra varie volte nel buio crescente. Frattanto parlavamo, o meglio, parlava quasi sempre lui, il professore. Cominciò col chiedermi come trovavo il campo di tennis, se mi pareva davvero una cosa tanto indecente. Micol, lei, era decisa. Sosteneva che bisognava rifarlo da capo, con criteri moderni. Ma lui ne dubitava. Forse, al solito, il suo caro terremoto esagerava. Forse non sarebbe stato necessario buttare all'aria tutto quanto, come lei pretendeva. Comunque sia, aggiunse, tra qualche giorno comincerà a piovere, inutile illudersi. Meglio rimandare ogni eventuale iniziativa all'anno prossimo. Non pare anche a te? Passò quindi a domandarmi che cosa stavo facendo, che cosa avevo intenzione di fare nell'immediato futuro e come stavano i miei genitori. Mentre mi chiedeva del papà, notai due cose. Prima di tutto, che stentava a darmi del tu, tanto è vero che di lì a poco, fermandosi di botto, me lo dichiarò esplicitamente, ed io subito a pregarlo con molto e sincero calore che mi facesse il piacere, non stesse assolutamente a darmi del lei, se no mi offendevo. Secondo, che l'interesse e il rispetto che era nella sua voce e nel suo viso, mentre da me si informava della salute di mio padre, nei suoi occhi principalmente, le lenti degli occhiali, ingrandendoli, accentuavano la gravità e la mitezza della loro espressione. Non erano affatto sforzati. Per niente ipocriti. Mi raccomandò che gli portassi i suoi saluti e i suoi complimenti anche per i molti alberi che erano stati piantati nel nostro cimitero da quando, per incarico della comunità, il papà aveva preso a occuparsene. Anzi, servivano dei pini, dei cedri del Libano, degli abeti, dei salici piangenti? Glielo domandassi al papà. Se per caso servivano, Al giorno d'oggi, coi mezzi di cui l'agricoltura moderna disponeva, trapiantare alberi di grosso fusto era diventato uno scherzo. Lui sarebbe stato felicissimo di metterne a disposizione nel numero desiderato. Stupenda idea, sinceramente. Folto di belle e grandi piante, anche il nostro cimitero, col tempo, sarebbe stato in grado di rivaleggiare con quello di San Niccolò al Lido, a Venezia. Non lo conosci? Rispusi di no. Ma devi cercare di visitarlo, al più presto, fece con viva animazione. È monumento nazionale. Del resto, tu che sei letterato, ricorderai certamente come inizia l'Edmenegarda di Giovanni Prati. Fui costretto a dichiarare ancora una volta la mia ignoranza. Ebbene, rispose egli, il Prati fa cominciare la sua Edmenegarda proprio lì, al cimitero israelitico del Lido, considerato nell'Ottocento come uno dei luoghi più romantici d'Italia. Attento però, se e quando andrai, non dimenticare di dir subito al custode del cimitero, è lui che ha in consegna la chiave del cancello, che intendi visitare quello antico, vada bene, il cimitero antico, dove non seppelliscono più dal Settecento, e non l'altro, il moderno, adesso adiacente, ma separato. Io lo scoprii nel 905, figurati. Sebbene avessi quasi il doppio dell'età che hai tu adesso, ero ancora scapolo. Abitavo a Venezia. Ci fui stabile per 2 anni. E il tempo che non passavo all'archivio di Stato, in Campo dei Frari, a scartabellare fra i manoscritti riguardanti le varie cosiddette nazioni nelle quali era divisa nel 5 e 600 la comunità veneziana, la nazione levantina, la ponentina, la tedesca, l'italiana, lo passavo laggiù, talvolta anche d'inverno. Vero è che non ci andavo quasi mai da solo, qui sorrise, e che, in qualche modo, decifrando ad una le lapidi del cimitero, di cui molte risalgono al primo 500 e sono scritte in spagnolo e in portoghese, continuavo all'aperto il mio lavoro d'archivio. Erano pomeriggi deliziosi, quelli. Che pace, che serenità. Col cancelletto di fronte alla laguna che si apriva soltanto per noi. Ci siamo fidanzati proprio là dentro, Olga ed io. Il professor Ermanno stette un poco silenzioso. Ne approfittai per chiedergli quale fosse l'oggetto preciso delle sue ricerche d'archivio. Da principio ero partito con l'idea di scrivere una storia degli ebrei di Venezia, rispose, un argomento suggeritomi appunto da Olga, e che il Roth, l'inglese Cecil Roth, ebreo, ha svolto una decina d'anni dopo tanto brillantemente. Poi, come spesso succede agli storici troppo appassionati, certi documenti del Seicento su cui mi accadde di metter le mani assorbirono talmente il mio interesse, finendo col portarmi fuori di strada. Ti racconterò, se tornerai. Un vero romanzo, sotto ogni aspetto. In tutti i modi, invece del grosso tomo storico, in capo a 2 anni, non sono riuscito a mettere insieme, a parte una moglie, si capisce, altro che 2 opuscoli. Uno, che ritengo ancora utile, dove ho raccolto tutte le iscrizioni del cimitero, e uno dove ho dato notizia di quelle carte del 600 che ti dicevo, ma così, esponendo i fatti e senza azzardare, in proposito, nessuna interpretazione. Ti interessa vederli? Sì, uno di questi giorni mi permetterò di fartene omaggio. Ma a prescindere da questo, vacci, mi raccomando, al cimitero israelitico del Lido. Merita, vedrai. Lo troverai tale e quale come era 35 anni fa, uguale, identico. Tornammo adagio verso il campo di tennis. A guardare non c'era rimasto più nessuno. Eppure, nelle tenebre quasi complete, Nicole e Carletto Sani giocavano ancora. Nicole si lamentava che il ragazzo la facesse troppo correre, che si dimostrasse così poco cavaliere, e del buio anche, francamente eccessivo. «Ho saputo da Nicole che sei ancora incerto se laurearti in storia dell'arte o in italiano», mi diceva frattanto il professor Ermanno. «O hai già deciso?» Risposi che avevo deciso, optando finalmente per una tesi in italiano. A un tratto lo vidi animarsi. Guardandosi attorno e riducendo la voce a un soffocato bisbiglio, né più nemmeno che se dovesse mettermi a parte di un segreto di Stato, mi comunicò la gran novità, che lui possedeva un gruppo di lettere inedite del Carducci, lettere scritte dal poeta a sua madre nel 75. «Mi interessava vederle?» mi domandò poi. «Se per caso le avessi ritenute adatte per farne argomento di una tesi di laurea in italiano, lui era dispostissimo a metterle a mia disposizione». Pensando a Meldolesi, non potei fare a meno di sorridere. «E il saggio da mandare alla nuova antologia? Dopo tanto discorrerne, non aveva dunque combinato mai nulla?» Povero Meldolesi. Da qualche anno era stato trasferito al Minghetti di Bologna, con somma sua soddisfazione, figurarsi. Un giorno o l'altro bisognava proprio che andassi a trovarlo. Nonostante il buio, il professor Ermanno si accorse ugualmente che sorridevo. Lo so, disse, che voi altri giovani da un po' di tempo in qua lo prendete sotto gamba, Giosuè Carducci. Lo so che gli preferite un Pascoli e un D'Annunzio. Mi fu facile persuaderlo che avevo sorriso per tutt'altra ragione, e cioè di disappunto. Averlo saputo che esistevano a Ferrara delle lettere inedite del Carducci, invece che proporre al professor Calcaterra, come avevo già fatto, purtroppo, una tesi sul Panzacchi, avrei potuto benissimo proporgli un Carducci ferrarese, di interesse indubbiamente maggiore. Chissà, però, forse parlando francamente della cosa al professor Calcaterra, che era un'ottima persona, forse ce l'avrei ancora fatta a passare dal Panzacchi al Carducci senza troppo rimetterci in dignità. «Quando conti di laurearti?» mi chiese infine il professor Ermanno. «Ma spererei l'anno prossimo, a giugno. Non dimentichi che sono anche io fuori corso». Annuì più volte, silenziosamente. «Fuori corso?» sospirò da ultimo. «Beh, poco male». E fece con la mano un gesto vago, come per dire che, con quello che stava succedendo, di tempo ce ne avevamo davanti a noi, tanto io quanto i suoi figlioli, anche troppo. Ma aveva ragione mio padre. In fondo, non sembrava granché addolorato di questo, tutt'altro. Volle essere Micol a mostrarmi il giardino. Ci teneva. «Direi che ne ho un certo diritto», aveva sogghignato guardandomi. Il primo giorno no. Avevo giocato a tennis fino a tardi ed era stato Alberto, quando aveva smesso di giocare con la sorella, ad accompagnarmi fino a una specie di baita alpina in miniatura, seminascosta in mezzo a una macchia d'abeti e distante dal campo un centinaio di metri. «Itte», la chiamavano lui e Micol, nella quale baita, o itte, adibita a spogliatoio, avevo potuto cambiarmi e poi, all'imbrunire, fare una doccia calda e rivestirmi. L'indomani, invece, le cose si erano messe in modo diverso. Un doppio, che opponeva l'Adriana Trentini e Bruno Lattes ai due quindicenni, col Malnate seduto in cima alla scranna arbitrale a far la parte del paziente conteggiatore di punti, aveva subito preso la piega delle partite che non finiscono mai. «Che cosa facciamo?» mi aveva detto a un certo momento Micol, alzandosi in piedi di scatto. «Per arrivare a dare il cambio a questi quattro, ho l'impressione che io, te, Alberto e l'amico Meneghino dovremo aspettare un'ora buona. Senti, perché non ci pigliamo su noi due e non andiamo a fare un primo sopralluogo in giardino? Appena il campo si fosse reso libero, aveva aggiunto, ci avrebbe certamente pensato Alberto a chiamarci. Si sarebbe ficcato tre dita in bocca, producendosi in qualcuno dei suoi celebri fischi». Si era rivolta verso Alberto, che sonnecchiava lì vicino su una terza sedia a sdraio, al sole, il viso nascosto sotto un cappello di paglia da mietitore. «Non è vero, signor Pascià?» Senza scomporsi, Alberto aveva annuito. Ci eravamo avviati. «Sì, suo fratello era formidabile», continuava a spiegarmi Micol. «All'occorrenza sapeva tirar fuori certi fischi talmente potenti che quelli dei pecorai, al confronto, erano roba da ridere. Strano, in un tipo del genere. A vederlo, uno non gli dava due soldi. Eppure, chissà mai dove andava a pescarlo, tutto quel fiato». Fu così che cominciarono, quasi sempre per ingannare le attese fra una partita e l'altra, le nostre lunghe scorribande a due. Le prime volte prendevamo le biciclette. La bicicletta era indispensabile, aveva immediatamente deciso la mia accompagnatrice, se volevo farmi un'idea abbastanza chiara dell'insieme. Il giardino era grande 10 ettari e i viali, tra maggiori e minori, sviluppavano nel loro complesso una mezza dozzina di chilometri. Ma a parte questo, senza bicicletta non sarebbe stato assolutamente il caso che ci spingessimo fin là in fondo, per esempio dalla parte del tramonto, dove lei e Alberto, da ragazzi, andavano spessissimo a vedere i treni che facevano manovra in stazione. Se ci fossimo spinti così lontano a piedi, rischiavamo di farci cogliere dall'olifante di Alberto senza essere poi in grado di ritornare con la necessaria prontezza. Quel primo giorno, dunque, eravamo andati a vedere i treni far manovra in stazione. E poi? Poi eravamo tornati indietro. Avevamo sfiorato il campo di tennis, attraversato il piazzale davanti alla Magna Domus, deserto al solito, più che mai triste, rifacendo in senso inverso, di là dal nero ponte di travi gettato sul canale Panfilio, il viale d'accesso fino al tunnel delle Canne d'India e al portone di Corso Ercole I. Qui giunti, Micol aveva insistito perché piegassimo a sinistra, per un sentiero sinuoso che seguiva via via l'intero perimetro del muro di cinta, prima dalla parte della Mura degli Angeli, tanto che in un quarto d'ora avevamo raggiunto di nuovo il lato del parco da cui si vedeva la stazione, e quindi dalla parte opposta, assai più selvosa questa, piuttosto cupa e malinconica, fiancheggiante la deserta via Aria Nuova per tutta la sua lunghezza. Ci trovavamo appunto là, a farci strada a fatica in mezzo a cespugli di felci, ortiche e sterpi spinosi, quando ad un tratto, da dietro il fitto sbarramento dei tronchi, il fischio da pecoraio di Alberto era insorto lontanissimo a richiamarci velocemente al duro lavoro. Con poche varianti di percorso, queste esplorazioni a largo raggio si ripeterono altre volte, 3 o 4, nei pomeriggi successivi. Quando la larghezza dei viali e dei sentieri lo consentiva, pedalavamo appaiati. Io guidavo spesso con una mano sola, tenendo l'altra appoggiata al manubrio della sua bicicletta. Nel mentre parlavamo. Di alberi, soprattutto, almeno da principio. In materia non sapevo nulla, o quasi, e la cosa non finiva mai di meravigliare Micol. Mi guardava come se fossi un mostro. «Possibile che tu sia così ignorante!» esclamava continuamente. «L'avrai pure studiata al liceo, un po' di botanica.» «Sentiamo», chiedeva poi, già preparandosi a inarcare le sopracciglia dinanzi a qualche nuova enormità. «Potrei sapere, per favore, che specie di albero lei pensa che sia quello laggiù?» Poteva riferirsi a tutto, a onesti olmi e tigli nostrani, come a rarissime piante esotiche, africane, asiatiche, americane, che soltanto uno specialista sarebbe stato capace di identificare, giacché c'era di tutto al barchetto del Duca, proprio di tutto. Io, comunque, rispondevo sempre a vanvera, un po' perché non sapevo realmente distinguere un olmo da un tiglio, e un po' anche perché mi ero accorto che niente le faceva tanto piacere come sentirmi sbagliare. Le sembrava assurdo a lei che esistesse al mondo uno come me il quale non nutrisse per gli alberi, i grandi, i quieti, i forti, i pensierosi, gli stessi suoi sentimenti di appassionata ammirazione. Come facevo a non capire? Come duravo a vivere senza sentire? C'era in fondo alla radura del tennis, per esempio, ad ovest rispetto al campo, un gruppo di 7 esili, altissime Washingtonie Graciles, o palme del deserto, isolate dal resto della vegetazione retrostante, scuri alberi di grosso fusto da foresta europea, querce, lecci, platani, ippocastani, e con attorno, anzi, un bel tratto di prato. Ebbene, ogni volta che in bicicletta passavamo dalle loro parti, Micol aveva per il gruppo solitario delle Washingtonie sempre nuove parole di tenerezza. «Ecco là, i miei 7 vecchioni», poteva dire. «Guarda che barbe venerande hanno!» «Sul serio», insisteva, «non parevano anche a me 7 eremiti della Tebaide, asciugati dal sole e dai digiuni? Quanta eleganza, quanta santità in quei loro tronchi bruni, secchi, curvi, scagliosi! assomigliavano a gambe di tanti San Giovanni Battista nutriti di sole locuste, veramente. Se non che le sue simpatie non erano affatto circoscritte agli alberi esotici. Per un platano enorme, infatti, dal tronco biancastro e bitorzoluto, più grosso di quello di qualsiasi altro albero del giardino e, credo, dell'intera provincia, la sua ammirazione sconfinava nella riverenza. Naturalmente non era stata la nonna Josette a piantarlo, bensì Ercole I d'Este in persona, chissà, o Lucrezia Borgia. «Capisci? Ha quasi 500 anni», sussurrava, sbarrando gli occhi. «Pensa un po' quante ne deve aver viste di cose da quando è venuto al mondo». E pareva che gli occhi ce li avesse anche lui, il grosso bestione, il platano gigantesco, occhi per vederci, oltre che orecchie per ascoltarci. Per gli alberi da frutta, poi, ai quali era riservata una larga fascia di terreno proprio sotto la mura degli Angeli, al riparo dai venti del nord ed esposta al sole, Micol nutriva un affetto molto simile, avevo notato, a quello che mostrava nei riguardi di Perotti e di tutti i membri della sua famiglia. Me ne parlava, di quelle umili piante domestiche, con la stessa bonarietà, con la stessa pazienza, e tirando fuori il dialetto, molto spesso, il dialetto che, nei rapporti con le persone, adoperava soltanto trattando con Perotti, appunto, o con Titta e Bepi, quando ci succedeva di incontrarli e ci fermavamo a scambiare qualche frase. Di rito, ogni volta, era la sosta davanti a un grande prugno, dalla chioma vasta e dal tronco poderoso come una quercia, il suo prediletto. Il Brogni Serbi, le prugne acerbe che faceva quel prugno là, mi raccontava, le parevano straordinarie da bambina. Le preferiva allora a qualunque cioccolatino Lindt. Poi, verso i 16 anni, aveva smesso di colpo di sentirne voglia. Non le erano piaciute più e adesso preferiva alle brugne i cioccolatini Lindt e non Lindt. Quelli amari però, esclusivamente quelli amari. Così le mele erano i Pum, i fichi i Fig, le albicocche i Mugnag, le pesche i Persag. Non c'era che il dialetto per parlare di queste cose. Soltanto la parola dialettale le permetteva, nominando alberi e frutta, di piegare le labbra nella smorfia fra intenerita e sprezzante che il cuore suggeriva. Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.